ad alta voce, in collaborazione con l'Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi. Massimo Popolizio legge Martin Eden di Jack London, traduzione di Cecilia Scerbanenko. Martin entrò in cucina con un peso sul cuore. L'immagine della faccia arrossata e del corpo sformato di sua sorella si faceva strada nel suo cervello, corrompendolo come un acido. Se solo avesse avuto un po' di tempo, Gertrude gli avrebbe voluto bene, concluse. Ma era carica di lavoro fino a morirne. Bernard Higginbotham era un bruto per caricarla così di lavoro. Martin, però, non poteva impedirsi di pensare che non c'era stato nulla di bello in quel bacio. Era vero, era un avvenimento inconsueto. Per anni Gertrude lo aveva baciato solo quando lui tornava o partiva da un viaggio. Ma quel bacio sapeva di sapone da bucato e le labbra, lo aveva sentito, erano flaccide. Non c'era stata quella veloce, vigorosa pressione che dovrebbe accompagnare un bacio. Era stato il bacio di una donna stanca. Stanca da così tanto tempo da aver dimenticato come si bacia. Si ricordò di quando lei era ragazza, prima del matrimonio, quando dopo una faticosa giornata nella lavanderia era capace di ballare con i migliori per tutta la notte, senza mai preoccuparsi della giornata di duro lavoro che l'aspettava l'indomani. E poi Martin pensò a Ruth e a come dovevano essere dolci e fresche le sue labbra, così come tutto in lei era dolce e fresco. Il suo bacio doveva essere come la stretta della sua mano, o come il modo in cui lei lo guardava, fermo, sincero. Nella propria immaginazione, Martin osò pensare alle labbra di lei sulle sue, e lo immaginò così vividamente che ne fu stordito, e gli sembrò di vagabondare tra nuvole di petali di rosa, mentre il suo cervello si riempiva del loro profumo. In cucina trovò Jim, l'altro inquilino, che mangiava una pappetta liquida con uno sguardo malato e vacuo negli occhi. Jim era l'apprendista di un idraulico e il suo mento debole, il temperamento edonistico, uniti a una certa stupidità nervosa, promettevano di non portarlo da nessuna parte nella lotta per conquistarsi pane e companatico. «Perché non mangi?» gli domandò, mentre Martin immergeva malinconicamente il cucchiaio nella fredda pappa di avena cotta solo a metà. «Ancora ubriaco ieri sera?» Martin scosse la testa. Si sentiva oppresso dal profondo squallore di tutto ciò che lo circondava. Ruth Morse gli sembrava ancora più lontana. «Io sì», si vantò Jim con una risatina nervosa, «pieno fino al collo. Oh, quella era un gioiello, mi ha portato a casa Billy». Martin fece cenno di aver sentito, per sua natura ascoltava chiunque gli parlasse, e si versò una tazza di caffè, quasi freddo. «Vai al Lotus Club stasera?» chiese Jim. «Ci sarà della birra, e se viene quella banda di Temskal sarà una serata agitata». «Ma io non mi preoccupo mica, ci porto lo stesso la mia ragazza». «Ah, accidenti. Ho un saporaccio in bocca», fece una smorfia e cercò di sciacquar via quel saporaccio con il caffè. «Conosci Giulia?» Martin scosse la testa. «È la mia ragazza», spiegò Jim. «È una bellezza. Te la presenterei, ma tu poi me la porti via. Non so cosa le ragazze ci vedono in te». «Ah, davvero non lo so, però riesci sempre a portarle via agli altri. Roba da star male». «Non te ne ho mai portata via nessuna», rispose Martin distrattamente. Doveva pur finire la colazione. «Sì, invece che l'hai fatto!» esclamò l'altro con calore. «Maggie!» «Ma non te l'ho mica portata via! Ho ballato con lei qualche sera e basta!» «Ed è bastato quello!» gridò Jim. «Hai ballato con lei, l'hai guardata ed è fatta! Certo che non lo volevi, ma sono stato lo stesso mandato a spasso!» «Non mi ha più guardato! Stava sempre a chiedermi di te!» «Avrebbe bruciato le tappe se glielo avevi chiesto!» «Ma io non volevo!» «Mica importava! Mi ha lasciato al palo lo stesso!» Jim lo guardò con ammirazione. «Ma come ti riesce, Mart?» «Credo perché non mi importa di loro», fu la risposta. Vuoi dire che gli fai credere che non ti importa? Chiese Jim con impazienza. Martin pensò per un momento e poi rispose. Beh, forse funzionerebbe lo stesso, ma penso che per me è diverso. Non mi è mai importato molto. Se puoi fingere, credo che va bene lo stesso. Avresti dovuto esserci alla scuderia di Riley ieri sera, annunciò Jim passando di punto in bianco a un altro argomento. Un sacco di ragazzi se la sono data di santa ragione. C'era anche un campione di West Oakland. Lo chiamavano il topo e sguscia via come la seta. Nessuno l'ha preso. Volevamo tutti che c'eri anche tu. E a proposito, dov'è che eri? A Oakland, rispose Martin. A vedere lo spettacolo. Martin spinse via il suo piatto e si alzò. «Vieni a ballare questa sera?» gli gridò dietro l'altro. «Oh, non credo», rispose Martin. Scese le scale e uscì in strada, dove respirò profondamente più volte. Si era sentito soffocare in quell'atmosfera e le chiacchiere dell'apprendista l'avevano quasi fatto diventare pazzo. In alcuni momenti era riuscito a malapena a trattenersi dallo schiaffare la faccia di Jim nella pappa d'avena. Più quello parlava, più Ruth gli sembrava lontana. Come avrebbe potuto diventare degno di lei, quando quello era il branco a cui apparteneva? Ne fu atterrito. Si sentì braccato dalle erinni della classe operaia. Sua sorella, la casa, la famiglia di sua sorella, Jim, l'apprendista, tutti coloro che conosceva, tutti i suoi legami nella vita, ogni cosa. Cercava di afferrarlo per trascinarlo in basso. L'esistenza non era dolce per Martin, ma fino ad allora aveva accettato la sua vita con tutto ciò che ne faceva parte, come una cosa buona. Non l'aveva mai messa in discussione, tranne quando leggeva. Ma dopotutto, quelli erano solo libri, favole di un mondo fatato ed impossibile. Ma adesso aveva visto quel mondo, possibile e reale, e proprio nel centro di quel mondo vi era una donna simile ad un fiore, chiamata Ruth. Da allora in poi avrebbe conosciuto l'amarezza, uno struggimento acuto come un dolore e una disperazione ancora più crudele, perché nutrita di speranza. Martin, dopo essere stato a lungo in dubbio se andare alla biblioteca pubblica di Berkeley oppure a quella di Oakland, si era deciso per quest'ultima, perché Ruth viveva a Oakland. Chi poteva saperlo? Una biblioteca era un posto adatto a lei e forse avrebbe potuto vederla proprio lì. Non aveva idea di come funzionasse una biblioteca e vagò attraverso infinite file di romanzi fino a quando una ragazza dai tratti delicati e dall'aria francese, che sembrava la responsabile della sala, gli disse che il settore saggistica era al piano di sopra. Ma Martin non sapeva che cosa chiedere all'uomo dietro al bancone e allora iniziò la sua avventura nell'alcova della filosofia. Aveva sentito parlare di libri di filosofia, ma non avrebbe mai immaginato che ne fossero stati scritti così tanti. Gli alti scaffali straripanti di grossi volumi lo intimidivano e nello stesso tempo lo stimolavano. Questo era un compito adatto al vigore del suo cervello. Nella sezione dedicata alla matematica trovò dei libri di trigonometria e ne scorse le pagine, fissando formule e figure prive di significato. Sapeva leggere l'inglese, ma quella era una lingua ignota. Norman ed Arthur conoscevano quella lingua, la parlavano ed erano i fratelli di Ruth. Si allontanò disperato da quegli scaffali. Gli sembrava che i libri incombessero su di lui da ogni parte per schiacciarlo. Non avrebbe mai immaginato che la conoscenza umana potesse essere così sterminata. E si spaventò. Il suo cervello avrebbe mai potuto padroneggiarla tutta? Ah, poi si ricordò che vi erano altri uomini, molti uomini, che erano riusciti in quell'impresa. Pronunciò a bassa voce, a compassione, un giuramento solenne. Giurò che, con il suo cervello, avrebbe fatto tutto ciò che altri uomini avevano già fatto. E così Martin continuò il suo vagabondaggio tra gli scaffali pieni di sapienza, alternando depressione ed esaltazione. Nella sezione miscellanea si imbatté nell'epitome di Norrie, ne sfogliò le pagine con reverenza. In qualche modo quel libro parlava una lingua più affine alla sua. Entrambi appartenevano al mare. Poi trovò un Bowditch e alcuni libri di Leakey e Marshall. Ecco. Avrebbe imparato le tecniche di navigazione, avrebbe smesso di bere, si sarebbe messo d'impegno e sarebbe diventato capitano. Ruth gli sembrò molto vicina in quel momento. Come capitano avrebbe potuto sposarla se lei lo avesse accettato, e se lei non l'avesse accettato, beh, avrebbe comunque potuto vivere bene tra gli uomini, grazie a lei, e avrebbe smesso di bere comunque. Poi si ricordò degli assicuratori e degli armatori, i due padroni animati da interessi diametralmente opposti che un capitano deve servire. Due padroni che potevano rovinare un capitano e che non avrebbero avuto tante esitazioni a farlo. Ah. Guardò il salone e poi abbassò le palpebre sulla visione di 10.000 libri. Oh, basta mare per lui. Quella ricchezza di libri era piena di potere, e se lui era destinato a fare grandi cose, doveva farle sulla terraferma. Tra l'altro, i capitani non avevano il permesso di portare le mogli a bordo. Old man, look at my life, I'm a lot like you were. Old man, look at my life, I'm a lot like you were. My life, 24 and there's so much more. Live alone in a paradise that makes me think of two. Love lost, such a cost. Give me things that don't get lost, like a coin that won't get tossed, rolling home to you. Arrivò mezzogiorno e poi il pomeriggio. Martin si dimenticò di mangiare e continuò a cercare dei libri sul Galateo. Oltre che dalla scelta della carriera da intraprendere, la sua mente era tormentata da un problema semplice e molto concreto. Martin lo esprimeva così a se stesso. Quando si viene presentati ad una signorina e lei vi chiede di tornare a trovarla, dopo quanti giorni bisogna farlo? Ma quando scovò lo scaffale giusto, non riuscì a trovare una risposta. Era atterrito dal vasto edificio del Galateo e si perse nel labirinto di norme che presiedono allo scambio dei biglietti da visita tra persone dell'alta società. Abbandonò la ricerca. Non aveva trovato quello che cercava, ma aveva scoperto che le belle maniere occupavano ogni momento dell'esistenza di una persona e che gli sarebbe stata necessaria un'intera vita per imparare a comportarsi educatamente. «Ha trovato ciò che cercava?» gli chiese l'uomo al banco mentre se ne stava andando. «Sì, signore», rispose. «Ha una bella biblioteca qui, eh?» E l'uomo annuì. «Saremo più felici di vederla qui spesso. Lei è un marinaio?» «Sì, signore», rispose. «E verrò ancora». Come aveva fatto a saperlo? Si chiese Martin mentre scendeva le scale. Per il primo isolato camminò rigido e diritto e goffo finché si perse nei suoi pensieri e riprese con grazia la sua camminata dinoccolata. doesn't mean that much to me, to mean that much to you. I've been first and last, look at how the time goes fast, but I'm all alone at last, floating home to you. Martin Eden era in preda ad una terribile irrequietezza, simile alla fame. Aveva fame di vedere di nuovo la ragazza le cui mani sottili avevano afferrato la sua vita con la forza di un gigante. Non riuscì a trovare il coraggio necessario per andare a farle visita. Aveva paura di presentarsi troppo presto, di rendersi così colpevole di un'orribile infrazione a quell'orribile cosa chiamata Galateo. Passò lunghe ore nelle biblioteche di Oakland e di Berkeley, e poiché con 4 tessere si potevano prendere i libri in prestito, consegnò moduli di iscrizione per se stesso e per le sue sorelle, Gertrude e Marian, e anche per Jim, dopo averne ottenuto il consenso al prezzo di molti bicchieri di birra. Ora Martin lasciava accesa la luce a gas fino a tardi nella stanza della servitù, e il signor Higginbotham gli aumentò l'affitto di 50 centesimi alla settimana. I molti libri che Martin leggeva riuscivano solo ad aumentare la sua irrequietezza. Ogni pagina di ogni libro era un pertugio che gli permetteva di sbirciare nel regno della conoscenza. La fame, nutrita da ciò che leggeva, aumentò. Martin non sapeva da dove cominciare ed era continuamente ostacolato dalla mancanza di preparazione. I riferimenti più banali, quelli che lo vedeva chiaramente, si dava per scontato che ogni lettore possedesse, lui non li conosceva. E lo stesso gli succedeva anche quando leggeva delle poesie, quelle poesie che lo rendevano folle di gioia. Ne lesse molte altre di Swinburne, oltre a quelle raccolte nel volume avuto da Ruth, e comprese perfettamente la poesia Dolores. Ma Ruth, lui concluse, non avrebbe potuto capirla. E come poteva, vivendo una vita così raffinata? Quando si imbatté nelle poesie di Kipling, fu rapito dalla cadenza, dal ritmo, dalla seduzione con i quali l'autore rivestiva cose che anche Martin conosceva bene. Fu stupito dalla sua sensibilità alla vita e dall'incisività dell'analisi psicologica. Psicologia era una parola nuova nel vocabolario di Martin, che si era deciso a comprarsi un dizionario, anche se quell'acquisto, oltre ad aver fatto infuriare il signor Higginbotham, il quale avrebbe preferito che quel denaro prendesse la forma di un affitto, aveva assottigliato la sua scorta di denaro, rendendo più vicino il giorno in cui avrebbe dovuto imbarcarsi per procurarsene dell'altro. Durante il giorno, Martin non osava avvicinarsi al quartiere di Ruth, ma la notte lo sorprendeva appostato come un ladro intorno alla casa dei Morse, intento a rubare attraverso le finestre qualche immagine fuggevole, innamorato persino delle mura che proteggevano la ragazza. Rischiò più volte di essere scoperto dai fratelli di lei, e una sera si arrischiò a pedinare il signor Morse fino in centro per poterne osservare la faccia nelle strade illuminate. Sperava sempre che qualche pericolo improvviso e mortale minacciasse il padre di Ruth per poter accorrere in suo aiuto e salvarlo. Una notte, la pazienza di Martin fu ricompensata. Vide Ruth per qualche istante attraverso una finestra del secondo piano. ne vide la testa, le spalle e le braccia alzate mentre si pettinava davanti allo specchio. Fu un attimo, ma per lui fu un attimo interminabile, durante il quale il sangue gli si trasformò in vino per cantare nelle sue vene. Poi lei tirò le tende. Ma adesso Martin sapeva che quella era la stanza di Ruth. Da quel momento in poi i suoi vagabondaggi terminarono spesso là davanti a fumare innumerevoli sigarette nascosto dall'oscurità di un albero sul lato opposto della strada. Un pomeriggio vide la signora Morse uscire da una banca. Ah, per lui fu un altro segno dell'enorme distanza che lo separava da Ruth. Lei apparteneva ad una classe che trattava con le banche, mentre lui non vi aveva mai messo piede in tutta la sua vita ed era convinto che solo le persone molto ricche e molto potenti frequentassero le banche. Per certi aspetti, in Martin era avvenuta una rivoluzione morale. La pulizia e la purezza di lei avevano agito in profondità e ora Martin avvertiva nel suo essere un acuto bisogno di pulizia. Doveva essere pulito per diventare un giorno degno di respirare la stessa aria che lei respirava. Si lavava i denti e si puliva le mani usando una spazzola per i piatti, fino a quando vide uno spazzolino per le unghie nella vetrina di un negozio e ne indovinò l'uso. Mentre lo acquistava, il commesso gli guardò le mani e gli consigliò anche una limetta per le unghie, e così Martin entrò in possesso di un ulteriore utensile per l'igiene personale. Poi, in biblioteca, si imbatté in un libro sulla cura del corpo e in breve tempo prese l'abitudine di fare un bagno freddo ogni mattina, cosa che riempì di stupore sia Jim sia il signor Higginbotham. Il cognato non capiva quella novità e iniziò a chiedersi seriamente se non dovesse fargli pagare una somma a parte per l'acqua. L'oggetto del miglioramento successivo fu la piega dei pantaloni. Martin, ora che era diventato sensibile a queste cose, aveva notato la differenza tra i pantaloni indossati dai membri della classe operaia, con le borse all'altezza delle ginocchia, e i pantaloni con la piega dritta, dal ginocchio alla caviglia, indossata dagli uomini appartenenti alle classi più alte. Scoprì anche il motivo di questa differenza e invase la cucina di sua sorella alla ricerca di un ferro e di un asse da stiro. All'inizio non ebbe successo. Dopo aver irrimediabilmente bruciato un paio di pantaloni, fu costretto a comprarne un altro, e questa spesa avvicinò ulteriormente il giorno in cui avrebbe dovuto imbarcarsi di nuovo. Ma il cambiamento era andato ben oltre il suo aspetto esteriore. Pur continuando a fumare, Martin aveva smesso di bere. Fino ad allora gli era sembrato giusto che un uomo bevesse ed era sempre stato fiero della propria capacità di reggere l'alcol, capacità che gli permetteva di continuare a bere quando la maggior parte degli uomini era già finita sotto il tavolo. Ogni volta che incontrava un vecchio compagno di viaggio, e ce n'erano molti a San Francisco, Martin lo invitava ed era a sua volta invitato a bere come al solito. Ma adesso lui ordinava per sé solo birra di erbe o di zenzero e sopportava di buon umore di essere preso in giro. Studiava i suoi compagni mentre diventavano sempre più ubriachi, osservava la bestia risvegliarsi in loro e dominarli, ed era grato a Dio di non essere più come loro. Quegli uomini avevano bisogno di dimenticare i propri limiti. Quando erano ubriachi, anche se i loro spiriti erano deboli e stupidi, si sentivano come degli dèi, ognuno dei quali regnava in un paradiso di desiderio drogato. Martin non provava più il desiderio di bere. Era ubriaco in un modo nuovo e più profondo. Era ubriaco di Ruth, che l'aveva infiammato d'amore, facendogli intravedere una vita più nobile ed eterna. Era ubriaco dei libri che, come fossero una miriade di larve deposte dal desiderio, continuavano a rodere nel suo cervello. Era ubriaco della sensazione di pulizia che ora provava e che rendeva la sua salute ancora più perfetta di quanto non fosse mai stata, facendo cantare tutto il corpo per il benessere fisico. Thank you. Una sera Martin andò a teatro nella cieca speranza di incontrare Ruth, e infatti la vide dalla seconda balconata. Percorreva il corridoio insieme ad Arthur, a uno strano giovane con gli occhiali e con i capelli molto folti, simile a un pallone da football. Vedendolo, si sentì immediatamente riempire di apprensione e di gelosia. Poi la vide sedersi al suo posto nella prima fila, e fu quasi tutto ciò che vide di lei quella sera: le spalle sottili e bianche e una massa di capelli color oro pallido, confusi nella distanza. Anche altre persone guardavano e, gettando di tanto in tanto un'occhiata intorno a sé, Martin notò due ragazze che lo osservavano e che gli sorridevano sfrontatamente dalla fila davanti, una dozzina di posti più lontano. Era sempre stato un tipo socievole, non era nella sua natura rispondere con rifiuto. In passato non solo avrebbe sorriso le due ragazze, ma le avrebbe anche incoraggiate. Ora era diverso. Sorrise a sua volta, poi distolse lo sguardo e cercò di non guardarle più. Ma più volte, dimenticandosi delle due donne, incontrava di nuovo il loro sguardo sorridente. Martin non poteva cambiare completamente in un solo giorno, non poteva nemmeno far violenza all'intrinseca gentilezza della sua natura, e così ogni volta rispondeva alle ragazze con un sorriso di calda e umana amicizia. Non era una situazione nuova per Martin. Sapeva che le loro mani di donne si stavano protendendo verso di lui, ma ora era diverso. Più in basso, nella prima fila, c'era l'unica donna del mondo, così diversa, così tremendamente diversa da quelle due ragazze della classe operaia. Lui provava solo pietà e dolore per loro. Nel suo cuore desiderava che anche loro potessero avere, anche solo in piccola parte, la bontà e la luce di Ruth, e per nulla al mondo le avrebbe ferite solo perché si erano mostrate disponibili. Non era compiaciuto, anzi, si vergognava un po' del suo aspetto modesto, che evidentemente aveva fatto pensare alle ragazze di poterlo avvicinare. Sapeva che se avesse fatto parte della classe di Ruth, non si sarebbero mai permesse di farlo. A ogni loro sguardo, lui sentiva le dita della classe operaia, la sua classe, serrargli di sì addosso per trattenerlo. Massimo Popolizio ha letto Martin Eden di Jack London. Regia di Francesca Zammarelli. A cura di Fabiana Carobolante con Lorenzo Pavolini. Ad alta voce @rai.it.